Nei mesi successivi il segretario comunista si divide tra la campagna sulla scala mobile e la battaglia elettorale per le europee. Il 7 giugno, ennesima tappa di un tour de force di comizi, Berlinguer arriva a Padova stanco ma di buon umore. Era il momento che dovevamo andare al comizio e lui non scendeva. Difatti stavamo aspettando nella hall dell'albergo che scendesse per poter andare al comizio. E invece non scendeva, allora Dato dice: guarda che si sta facendo tardi, e valla a chiamargli che scenda. Difatti io salgo su in camera, ma Berlinguer non c'era. Riscendo tutte che de corsa, tutto trafelato, guarda che Berlinguer non c'è. Mentre si discuteva non c'è, non c'è, si è apparso lui che veniva da fuori, tutto sorridente, e col dito sotto il viso mi ha detto: vedi che pure stavolta t'ho buggerato. Hai fatto bene, perché per lui a uscire da solo, per lui era una cosa... Il presultare. Buon pomeriggio, sono molto gravi le condizioni del segretario del Partito Comunista Enrico Berlinguer, colpito da emorragia cerebrale ieri sera a Padova. Il primo arrivò è Pertini. È arrivato Pertini e si è fatto subito da una camera a fianco a lui e ha dormito là tutti i giorni dell'agonia. A notte profonda è arrivata Letizia con Pecchioli, poi è arrivato Giovanni e poi sono arrivati tutti. L'onorevole Enrico Berlinguer è mancato di vivere alle 12.45. La mattina che se spostavamo da Padova a andare a Mestre a prendere l'aereo presidenziale, una giornata brutta, pioveva, piovicicava. Siamo partiti da Padova e sulla prima macchina hanno fatto con me, ci stavo io, Letizia e Giovanni, dietro subito dopo il feretro. E da Padova a Mestre, io di preciso non so quanti chilometri sono, però ai lati della strada c'è stata, è difficile dirlo, c'è stato un mare di gente. A vedere questa gente, tutti bagnati, fradici, però fermi, immobili lì per salutarlo. Questo era Berlinguer. Mix 24, la storia. Emanuele Macaluso, politico e amico di lunga data di Enrico Berlinguer. A più di 30 anni dalla scomparsa del leader storico del Partito Comunista, il ricordo è ancora vivo. Perché? Io penso che la ragione fondamentale è il fatto che oggi, in questi anni, c'è una miseria della politica. La politica è decaduta e c'è anzi una campagna antipolitica violenta e arrogante. E quindi siccome Berlinguer, a mio avviso e avviso di tanti, ha nobilitato la politica e ha dimostrato che è possibile dare alla politica un senso elevato, nobile, una battaglia nobile e nell'interesse generale, io credo che questa sia la ragione. Qual è la sua grandezza? Anzitutto la sua coerenza, nel senso che lui giovanissimo andò in carcere a Sassari, sì, guidando le manifestazioni per il pane, e ha tenuto sempre ferma, anche quando ha diretto il partito come segretario, ha tenuto ferma questa linea di un rapporto forte con il popolo, con la gente. Quindi la sua personalità nel mondo del lavoro, nel popolo, si è identificata come un uomo che esprimeva le esigenze più di fondo del popolo. Quindi qual è la sua eredità? Oggi il mondo è cambiato. Tuttavia, l'attualità di Berlinguer, credo, vada ricercata nel fatto che siccome non ci sono più partiti, ma ci sono solo aggregati elettorali, cartelli elettorali, sì. Non ci sono più partite, ci sono più quindi anche personalità che guidando quei partiti ponevano il problema e davano ai cittadini anche un orizzonte, un futuro. Io credo che questa esigenza, l'esigenza di coordinare l'attività quotidiana per risolvere i problemi che ci sono, ma con una prospettiva del domani, che è quello che manca oggi. Oggi le forze politiche non dicono e non sanno che dove va la società. Ecco, Berlinguer raccordava sempre l'oggi col domani. Col futuro. Qual è l'errore principale che si fa quando ci si accosta a questa figura? Ovvero, cosa non è stato Enrico Berlinguer? Enrico Berlinguer non è stato, come si dice, un moralista, un monaco, qualcuno dice. No. Enrico Berlinguer ha indicato la questione morale come un problema collegato all'esigenza di dare ai partiti che avevano occupato parte di quel terreno che è delle istituzioni di fare un passo indietro per salvare i partiti, perché una democrazia senza partiti, che democrazia è? Quindi andiamo al caos, alla democrazia del web, come qualcuno oggi dice. Quindi l'idea che la sua posizione era solo una posizione morale è sbagliata, era una morale e un'etica necessaria ai partiti per assolvere una funzione, quella funzione che la Costituzione gli assegna come canali per indicare anche ai parlamenti, ai governi le cose da fare. Sembra un messaggio molto utile per oggi, ma come si può spiegare ad un giovane chi è stato Enrico Berlinguer? Bisognerebbe dire che se i giovani che vogliono un avvenire nuovo non si impegnano nella politica, allora la politica sarà in mano ai maneggiori. Quindi anche questa è l'alternativa che Berlinguer potrebbe essere attuale ancora attuale oggi. Ancora. Il ricordo più bello che ha di lui? Dopo che io avevo avuto polemiche con lui nel 1980, fu lui nell'82 a chiedere alla direzione del partito che decise che io facessi il direttore dell'unità nel momento in cui Craxi era diventato anche presidente del Consiglio. Quindi io questo modo di concepire i rapporti, ecco, che non c'era mai un personalismo. Io credo che questo in Berlinguer è stato veramente un esempio. Grazie. Di niente.